la boca socchiusa e la risata fresca. Hai i capelli dorati, accarezzali un po'. Mi piace la maniera con cui tu guardi me. Mi piace il tuo corpo, sirena mia dolce, mentre ti tuffi al blu. Nascondi dietro i tuoi occhi mille più segreti. Hai il cuore pieno di spine, tu vuoi pungere me. Mi piace la maniera di ballare che hai. Mi piace il tuo corpo, sirena mia bionda, mentre ti tuffi nel blu. Isabel, la sciocchezza è un sogno, piccola Isabel. Voglio che sia un sogno, piccola Isabel, per averti sempre con me. Isabel, entra dentro un sogno, piccola Isabel. Sento che sono nervoso quando stiamo insieme. Mi sento un po' impacciato e odio tutto di me. Ma sera dopo sera crescerai per me. Mi attira l'avventura che mi sta facendo impazzire per te.